Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno da Alessio Maurizi, ben ritrovati con Si può fare. Staremo insieme fino alle 11, uno sguardo ai giornali di oggi, per chi non avesse già sentito la rassegna stampa più approfondita fatta circa un'ora fa da Mauro Meazza. Poi insomma i nostri approfondimenti, apriremo un numero verde per sentire anche i vostri commenti. Parleremo, ve lo dico subito, della reggia di Carditiello. Torneremo in provincia di Caserta per parlare della meno famosa rispetto a quella di Caserta reggia Real Sito Borbonico, che è in stato di abbandono e ancora dopo investimenti da parte dello Stato per recuperare questo bene dall'altissimo valore storico, culturale ma anche simbolico, perché si trova nella terra dei fuochi in mezzo agli assalti della criminalità. Ebbene, nonostante le promesse, le cose non stanno andando come è promesso. Oggi c'è una manifestazione per sostenere questo progetto di recupero della reggia, ma anche in solidarietà nei confronti dell'ex ministro Massimo Brai, ministro per i beni culturali, minacciato dalla Camorra per il suo impegno per il recupero di questo bene storico. Parleremo di questo dopo il giornale radio delle 9. I nostri contatti da subito se volete interagire con noi in tempo reale: la pagina Facebook Si può fare /radio24, l'account di Twitter è @sipoffare24, il mio personale è @alemaurizzi. Adesso andiamo a dare un'occhiata ai giornali. Vai. Il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora, la Russia dopo l'omicidio di Nemtsov, ma anche la manifestazione importante della Lega a Roma, e poi qualche intervista, per esempio quella del Corriere la sera al ministro dell'economia Padoan, che torna, e partiamo subito da qua, sulla questione Rai Way, cioè l'azienda che detiene le torri di trasmissione della Rai, non tratto con Mediaset. È questo il titolo principale. Padoan avanti sulle riforme, ricorda poi abbiamo evitato una manovra da 40 miliardi. Vediamo brevemente alcuni passaggi di questa intervista. Intanto, appunto, su Rai Way dice: il 51% viene mantenuto per dare un segnale aggiuntivo che lo Stato non intende perdere il controllo di questa azienda. Ma qual è la strategia che c'è dietro la vendita di Rai Way? È un'operazione che rientra nella logica del governo di verificare quale partecipate possono creare un valore che serva ad abbattere il debito, quindi una questione di far cassa, e poi dall'altra parte aumentare anche l'efficienza grazie ad una maggiore esposizione al mercato dei management. Quindi diciamo una logica di efficienza e di far cassa. Ma il lancio dell'offerta d'acquisto da parte della concorrente Mediaset segna l'avvio di una trattativa? Per quanto mi riguarda non c'è nessuna trattativa. Da qua il titolo scelto dal Corriere, perché si era parlato insomma di questa OPA da parte di Mediaset come di l'inizio di un percorso che, se non all'acquisizione della società, su cui è stato detto appunto che la Rai non, insomma, il tesoro non cederà più, cioè non andrà oltre più basso, cioè sotto, scusate, adesso mi sto intrecciando, il 51%, poteva essere l'inizio di una trattativa per creare una società mista pubblica e privata con dentro Mediaset. Ma Padoan dice: non abbiamo intrapreso né azioni né contromisure, non c'è nessuna trattativa, resta il limite del 51%, la quota che è stata messa sul mercato. Vedremo, si faranno delle scelte, ci sono operatori che possono essere interessati ad uno scambio di partecipazioni. Poi il tema della ripresa, la ripresa che sta arrivando da un ambiente macroeconomico internazionale favorevole, dice Padoan, ma anche dalle scelte politiche ed economiche, dalle riforme che stiamo facendo noi al governo. Ebbene, però la crescita, gli ricorda il Corriere, resta sotto l'1%, la crescita prevista dall'Italia tra le più basse in Europa, la domanda interna è debole, vero, la ripresa dei consumi familiari sarà sostenuta dall'aumento del reddito grazie agli sgravi fiscali, mi aspetto, dice, però, che le imprese facciano investimenti, quindi diciamo l'invito anche alle imprese a fare la loro parte. Andiamo avanti velocissimamente: scenderanno le tasse sulla casa quest'anno? La risposta è indiretta, ma è no, perché dice: se si devono abbattere le tasse, la mia precedenza va agli investimenti produttivi, cioè al lavoro, cioè a far ripartire l'occupazione. E poi il tema spending review in chiusura. L'esperienza del commissario Cottarelli è conclusa. Il lavoro fatto da Cottarelli è stato utile, deve continuare, dice Padoan, indipendentemente dal fatto che ci sia o no un commissario. E qua c'è la svolta, il cambio di passo. Giudicate voi, dice, mi piacerebbe pensare che stiamo andando verso una norma, scusate, verso una normalità che considera la razionalizzazione della spesa pubblica un dovere permanente. Quindi basta epoca di commissari, si torna a un'epoca dove la spending review devono farla tutti i ministeri, i ministri, tutte le amministrazioni dello Stato, sempre e comunque. Questo è il punto di vista del ministro Padoan, che probabilmente lo avrà condiviso con il resto del governo. Invece sul discorso della manifestazione della Lega a Roma, vediamo un po' qualche titolo qua e là. Intanto, appunto, sempre sul Corriere, Lega e cortei a Roma, le gabbie come al G8, le gabbie della polizia per bloccare certi ingressi alle strade, l'attacco di Salvini a Renzi e alla Fornero. 30.000 le persone che sarebbero scese in piazza del Popolo, secondo le stime della stessa Lega. Bossi che dice, però, nonostante gli striscioni che dicevano Berlusconi politicamente defunto, gli striscioni della Lega, Bossi insiste, con Silvio è sbagliato rompere. Poliziotto buono, Bossi, poliziotto cattivo, Salvini, potrebbe essere una strategia. Vabbè, c'è l'intervista anche poi su altri giornali a Bossi. Poi il commento dell'avversario alle ex alleato Giovanni Toti, consigliere politico di Forza Italia, che dice copiano Grillo e come i 5 Stelle diventeranno irrilevanti. Attenzione Toti, perché se copiano Grillo gli riesce potrebbero arrivare al 25% come ha fatto Grillo, e allora irrilevante diventerebbe Forza Italia. Però questi sono scenari. Sempre sul altri titoli sulla manifestazione della Lega. C'è chi sminuisce, come il Fatto Quotidiano, che dice, vediamo, la marcetta su Roma, alludendo al fatto che la partecipazione è stata appunto di poche decine di migliaia di persone, un flop secondo il Fatto Quotidiano. Invece il Libero scrive, ecco il piano di Salvini per prendersi il centrodestra. Il comizio di Roma è stato un successo, ha svelato il vero disegno del leader leghista. Scrive Maurizio Belpietro, qualche mese fa avrei scommesso che una volta messo insieme un pacchetto di voti sufficienti a farlo primeggiare, Matteo Salvini avrebbe riproposto lo schema di gioco che Silvio Berlusconi aveva inaugurato nel 94. Invece adesso, anche dalle mosse delle ultime settimane e a maggior ragione, scrive Belpietro, dopo il comizio di ieri si capisce che il numero uno nel carroccio non ha alcuna intenzione di rifare le alleanze che portarono il centrodestra a vincere parecchie elezioni. L'obiettivo è rubare i voti a Forza Italia, al nuovo centrodestra e anche a Grillo. Una strategia che secondo Libero però ha dei punti di forza, sì, ma anche dei punti di debolezza. Tornando invece ai temi economici e a quanto diceva il ministro dell'economia Padoan sul Corriere, alla ripresa lanciata, trainata soprattutto dallo scenario macroeconomico internazionale e per quanto riguarda l'Europa dal quantitative easing, la mossa della BCE, su cui sono tutti d'accordo. Oggi l'editoriale di Repubblica di Scalfari è perché è Draghi il motore della crescita europea, scrive il Sole 24 Ore. Quantitative easing, conto alla rovescia, pronti 1.100 miliardi, Draghi darà il via all'apertura dei mercati il 9 marzo, segnatevi questa data. Le banche centrali, scrive Alessandro Merli, dell'area euro potrebbero cominciare l'acquisto su larga scala dei titoli di Stato nei giorni immediatamente successivi all'approvazione da parte del Consiglio della BCE, giovedì prossimo a Cipro, della documentazione legale necessaria. L'operazione potrebbe probabilmente partire da lunedì 9 marzo. E lì poi si vedrà subito, diciamo, di nuovo gli effetti che questa cosa tende ad avere sui mercati, ma un po' in generale, anche se insomma, gli effetti sull'economia ci vorranno piano piano mesi, settimane e forse mesi. Il Sole 24 Ore si incarica però di smentire anche una notizia diffusa ieri da alcuni giornali sul possibile decreto martedì prossimo in Consiglio dei Ministri per passare dal rame alla fibra in tutta Italia, e quindi un piano di qui al 2030 del governo sulla rete Telecom. No al decreto. Il governo smentisce il decreto legge, martedì un piano con gli obiettivi, anche se Renzi ribadisce sulla banda larga si deve correre, nessun decreto, scrive Il Sole. Il governo smentisce rumors, anche se ambienti vicini al premier lasciano intendere che l'esecutivo non intende indietreggiare sugli obiettivi, sulla banda larga bisogna correre e recuperare, i privati poi dovranno presto attrezzarsi per fare la loro parte. Vediamo ancora qualcosa invece sulla manifestazione della Lega. Su Repubblica, slogan alla Grillo, Berlusconi resta il leader, è il commento, l'intervista a Maria Stella Gelmini, che è un po' sulla falsa riga di quello di Toti. La foto con Berlusconi politicamente defunto, meglio soli, con dentro le odi meglio soli il sole delle Alpi, uno striscione leghista apparso ieri che quindi diciamo mette un po' una pietra tombale su questa alleanza con la Forza Italia di adesso, quella che si presenta ancora con Berlusconi leader, ma può darsi che sia solo strategia, come dice Belpietro, per prendersi i voti di Forza Italia e poi chissà, magari invece allearsi in una posizione di maggiore forza. Il particolare è questo, che i giovani azzurri di Forza Italia erano presenti alla manifestazione, i giovani, insomma, le nuove leve di Forza Italia sono stati invitati ad abbandonare la piazza, sono stati cacciati in pratica, così scrive Repubblica. Il movimento che si chiama Azzurra Libertà, e loro stessi dicono siamo stati costretti a fuggire dalla Piazza del Popolo, dove eravamo presenti con le nostre bandiere, e ce l'hanno chiesto i partecipanti alla manifestazione. Insomma, è proprio guerra di posizione in questo momento tra la Lega e Forza Italia. Sulla Stampa invece il titolo principale è dedicato alla Russia, Mosca, dicevamo prima in apertura, la fotonotizia, una piccola folla che porta i fiori nel luogo dove è stato assassinato Nemtsov, a pochi passi dal Cremlino, il capo dell'opposizione. Mosca, tra sospetti e minacce, il mondo preme su Putin. Vediamo l'articolo da Mosca della Stampa. Veleno del Cremlino sul rivale Nemtsov, era un cittadino medio, quindi il portavoce del Cremlino che neanche concede a Nemtsov il, diciamo, l'onore delle armi, no? Anche se poi dopo si è parlato per lui di un cittadino, poco più che un cittadino medio, che non ha minacciato il Cremlino. Poi dopo però Putin ha mandato un telegramma alla credo che fosse alla madre di Nemtsov, dicendo una perdita irreparabile, ha lasciato il segno nella storia della Russia, ha sempre onestamente dichiarato la propria posizione, difeso il suo punto di vista e ha promesso farò di tutto perché organizzatori ed esecutori di questo vile e cinico omicidio vengano puniti. Anche qui è difficile capire se si tratta di strategia da parte di Putin, anche se quasi tutti i commentatori tendono a escludere che ci possa essere un coinvolgimento diretto del Cremlino, perché per una serie di ragioni, insomma, però... Questo è poi il commento dello stesso Putin tramite questa lettera alla madre di Nemtsov. Ma perché sarebbe stato ammazzato? Gli investigatori stanno lavorando su varie piste, da un tentativo di destabilizzare lo Stato alla pista dell'estremismo islamico, anche qui il conflitto in Ucraina, ma anche la vita sentimentale di Boris Nemtsov, 55 anni. Ex fan prodigio della politica russa, colpito a morte a poche centinaia di metri dal Cremlino l'altra notte. Direi che facciamo una pausa, ci fermiamo per il traffico e torniamo tra un attimo. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. Ed eccoci qua di nuovo in diretta, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, adesso è il momento di entrare con tutte e due le gambe, le braccia e con tutti e due gli occhi soprattutto sul domenicale di oggi, l'inserto culturale del Sole 24 Ore. Ritroviamo il direttore dell'inserto culturale del Sole, Armando Massarenti. Buona domenica, Armando. Buona domenica a tutti. Allora Armando, oggi dove ci guidi? Ma dunque, a guidarci è soprattutto un grande storico dell'arte, Álvaro González Palacios, che ci guida tra vie, chiese, capolavori, palazzi e anche tra tutti i luoghi in cui ha conosciuto i grandi storici dell'arte di 50 anni fa. Noi abbiamo questo grande collaboratore che proprio ai tempi dell'alluvione di Firenze, stiamo parlando di Firenze, muoveva i suoi primi passi da critico e conosceva il meglio di allora. Allora cosa fa? Ci fa una carrellata di queste sue conoscenze che poi è il primo di una serie di 5 articoli, di 5 reportage appunto, di lui che torna nei luoghi e quindi ci fa una piccola storia, insomma, del meglio della critica, della storia dell'arte del secolo scorso, però vista con gli occhi di oggi di un grande esperto come appunto Álvaro González Palacios. E questo è una copertina artistica, ci sono vari argomenti di tipo artistico all'interno del giornale, per esempio di tenore completamente diverso, un filosofo, Mario De Caro, che ragiona su un libro assolutamente brillante di Stefano Poggi, che è uno dei massimi storici della filosofia, ed è un libro atipico rispetto alla sua produzione normale, lui è un esperto soprattutto di Hegel, e ci parla dell'astrattismo, cioè di tutte le filosofie che stanno dietro a Kandinsky, insomma, sostanzialmente. Tanto per intendersi, per dare subito un'immagine, sì. Esatto. Ed è assolutamente sorprendente perché è un tipo di filosofia che non è quella che ci aspettiamo, diciamo, guardando Kandinsky, anzi c'è qualcosa anche forse di molto anacronistico, e tuttavia miracolosamente queste produzioni artistiche ci piacciono moltissimo ancora oggi. E sempre per rimanere nell'ambito dell'arte, devo dire che c'è una scoperta, naturalmente tutta ancora un po' da verificare in maniera precisa da parte degli storici, ma ne parla Carminati, e c'è una scoperta in pratica nella Basilica Antoniana di Padova di un nuovo Giotto, cioè sono state scoperte delle assomiglianze sia per qualità sia per appunto somiglianza proprio del viso tra un ritratto di anziano, diciamo, della Cappella Scovegni e un ritratto molto molto vicino allo stile che era stato rimasto del tutto inosservato perché nascosto, insomma, dietro altre statue che appunto sembra proprio essere di Giotto. Cappella Scrovegni, scusa Armando, a Padova, che a Padova. Bisogna sempre andare a vedere, se uno non l'ha mai vista, andarci, se non l'ha vista, tornarci, perché è un'esperienza straordinaria, veramente notevole. Veramente notevole. Ecco, poi questo è un po' insomma alcune delle cose di tipo artistico. Poi abbiamo Rousseau il doganiere, abbiamo uno speciale di 2 pagine, ma io mi collegherei a questo aspetto per passare ad un altro argomento, che è quello trattato da Gianfranco Ravasi dei 1000 modi in cui è stato rappresentato Cristo, perché ci introduce anche ad un altro argomento che pure ricorre abbastanza in questo numero, che è quello di ragionare su appunto che cosa, in che senso direbbe Croce non possiamo non dirci cristiani. E il modo forse più efficace è quello di un romanzo di cui si parla molto in questi giorni, perché è uscito 3 giorni fa, Emmanuel Carrer, di cui io stesso ho fatto una recensione, ed è un'esperienza, è un libro veramente molto bello, che secondo me può piacere a tutti, cioè sia credenti sia non credenti, perché è un libro che tra l'altro non è neppure un vero e proprio romanzo, è una specie di memoriale autobiografico, che però diventa romanzo proprio nel momento in cui cerca di ricostruire in maniera un po' immaginifica la spiritualità dei primi cristiani sulle orme di Luca e dell'Evangelista e di San Paolo. E questo è un libro veramente molto interessante, molto, insomma, vale la pena di leggere le ben 430 pagine di questo libro edito da Adelphi. Noel Carrel, sappiamo tutti, insomma, chi è, uno dei più importanti scrittori francesi in questo momento. Qualche settimana fa aveva recensito un altro grande scrittore francese, Houellebecq, un altro bestseller in questo momento. E qui abbiamo una riflessione veramente molto sottile, ed è un romanzo che si legge come un saggio, ecco, per rovesciare quello che si dice di solito, ed è per questo che è molto molto vicino alla nostra mentalità, insomma, al modo in cui noi facciamo normalmente il domenicale. Però non è l'unico argomento di tipo religioso, dicevamo prima Ravasi, abbiamo anche, per esempio, a proposito dei rapporti tra fede e scienza, un bell'articolo di Vincenzo Barone che parla di un libro di Amir Axel, Perché la scienza non nega Dio, e di fatto però invece Barone dice che le tesi di Axel sono piuttosto deboli, perché si tende normalmente a pensare che una serie di acquisizioni, diciamo, che sembrerebbero in negativo della scienza contemporanea, non so, l'indeterminazione quantistica, il principio di Heisenberg, il teorema di Gödel appunto sulla impossibilità di costruire un sistema assiomatico, le teorie del caos, ecco, tutte queste cose vengono percepite in questo tipo di teologia di Axel come delle lacune della scienza che verrebbero colmate poi dalla religione. Ecco, invece dice molto chiaramente Barone che si tratta invece di grandi acquisizioni della nostra conoscenza, non sono affatto lacune, ma sono dei gioielli appunto di tipo matematico e di tipo logico, fisico, eccetera. Poi dobbiamo purtroppo fermarci qua perché abbiamo il giornale radio. Armando, grazie mille. Prego, Armando Massaretti, buona ciao, buona domenica, grazie per essere stato con noi come sempre con le anticipazioni del domenicale. Tutto il resto naturalmente lo trovate all'interno del Centro Culturale del Sole in edicola. Noi invece con Si Può Fare ci ritroviamo dopo il giornale radio, a tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi in diretta. Eccoci qua, tra poco saremo in collegamento con l'ex ministro per i beni culturali Massimo Brai da Caserta per parlare di in che stato versa il piano di recupero della Reggia Borbonica di Carditiello. Chi vincerà nella Terra dei Fuochi, lo Stato o l'illegalità? 800 24 00 24 se volete intervenire su questo, ma anche se volete giocare con noi. Tra poco il primo indizio per il personaggio della settimana, dopo il traffico ve lo daremo naturalmente. Continua la nostra iniziativa in collaborazione con i comuni virtuosi, oggi in palio un weekend nel potere Cristina a Parma, la nostra iniziativa con l'associazione dei comuni virtuosi in occasione del premio nazionale dei comuni virtuosi. Qualunque comune può partecipare, aderendo a questa iniziativa andate sul sito dei comuni virtuosi e scoprite come. Ci risentiamo quindi tra pochissimo, dopo il traffico. 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. Qua di nuovo, buongiorno cari ascoltatori da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Buongiorno, buona domenica a tutti. E allora vi aspettiamo al numero verde, lo ripeto, 800 24 00 24. Tra poco il primo indizio anche del personaggio della settimana. Cosa dobbiamo dire? Ma io senti, voglio dirti questa cosa qua. Cioè, ieri sera ho visto la prima puntata di una nuova bellissima trasmissione che è un po' gemella di Si Può Fare, su Rai 3, Scala Mercalli, condotta da Mercalli, alla scoperta di come cambia il mondo, di come cambia il mondo in chiave di sostenibilità e esperienza. Hanno fatto vedere per esempio un documentario bellissimo da quartiere di Brixton a Londra, dove c'è le città in transizione, orti urbani, gente che recupera baratto, l'autoproduzione, tutto questo mondo sommerso qua, che è una reazione alla crisi economica ma anche un nuovo stile di vita di cui noi, insomma, cose di cui noi Si Può Fare siamo parliamo portatori spesso e volentieri, perché ci piacciono un sacco. Sono sono come il bello dell'attualità che cambia. E quindi c'è questo bel programma. Ma che ora è? Del climatologo Mercalli. Tardi. Ah, tardi. Non tardissimo. Io ho visto verso le 10:30, 11. Ho già iniziato. Giusto per ricordarci che è stato un sabato straordinario. Ti sei divertito un sacco. Sei riuscito a distruggerti, diciamo. Hai guardato Scala Mercalli. Buone notizie. No, ero appena rientrato da una bella cena con amici. E poi ho acceso un attimo la televisione. Giusto. Così. Però poi sì, vai. No, no, io dov'ero, ben lo sai, ero al cinema Mexico. Dovevo esserci anch'io, ma ero esatto, con questi amici. Alla prima milanese del film Patria, insieme a Francesco Pannofino e Felice Farina. Ma devo dire che la cosa più bella è stato l'incontro con Antonio Sancassani, che è il proprietario, il gestore di questo incredibile cinema che è il Mexico. Lui è un personaggio incredibile. Infatti, gli ho anche detto che secondo me dobbiamo invitarlo qui in trasmissione. Lui è veramente un si può fare vivente. Ha preso in gestione il cinema negli anni 70, mi ha raccontato tutto come è iniziato, poi tutta la storia di The Rocky Horror Picture Show, perché ricordiamo che al Messico tutti i venerdì viene mostrato The Rocky Horror, viene proiettato il film, sì. Ma non solo il film, perché in realtà c'è tutta una compagnia teatrale che rifà pezzi del film davanti allo schermo, quindi c'è tutta una comunità che segue questo film. E poi lui è un personaggio incredibile, per dire, è uno che è veramente un esercente libero da ogni circuito. E infatti ricordiamo che è quello che ha proiettando per 2 anni di fila un film che è una cosa incredibile, che non succede da nessuna parte, ovvero Il vento fa il suo giro, il film di Giorgio Diritti, è riuscito a far notare un film che in realtà invece la critica se l'era dimenticata, finché Giorgio Diritti vincerà anche il Davide Donatello e ringrazierà lo stesso Antonio Sancassani. Poi ha vinto anche l'Ambrogino d'Oro, insomma è un personaggio incredibile. Una cosa veramente che si può dire è che in effetti, insomma, gestire un cinema indipendente non è facile di questi tempi e da un po' di anni a questa parte. No, anche perché è una delle ultime sale monoschermo, nel senso che ormai tutti hanno il multiplex, tutte sono queste mega sale che in realtà guadagnano, diciamo, dal popcorn oltre onore che dal cinema. Al merito del cinema Mexico, veramente, a Milano, cinema Mexico, Antonio Sancassani, un personaggio incredibile. Diciamo, allora, che sentire lui parlare di cinema ti fa innamorare del cinema e di nient'altro. Cari amici ascoltatori, vi diamo il primo indizio, vai, cominciamo così a giocare con il personaggio della settimana che andiamo cercando. Il primo indizio che voglio darvi questa mattina, aprite bene le orecchie, è questo: il nostro personaggio questa settimana ha occupato Roma. 800 24 0024. Allora, anche oggi in palio mettiamo un premio offerto dai Comuni Virtuosi, l'ho già ricordato poco prima della pubblicità. Voglio solo dire che questa volta siamo a Parma, un weekend presso il Podere Cristina a Parma, comune che da poco ha aderito all'Associazione dei Comuni Virtuosi. Sono un centinaio in tutta Italia, in generale sono piccoli comuni, invece questa volta parliamo di Parma, un comune grande, 180.000 abitanti. Che cosa ha fatto per meritarsi la palma del comune? Sicuramente virtuoso. Niente legato al calcio, giustamente. No, esatto, sembra veramente un paradosso, invece è così: raccolta differenziata al 70%, con un porta a porta spinto in tutta la città, quindi riduzione dei rifiuti tra le città grandi, credo che sia quello che ha la soglia più alta. Poi vabbè, c'è l'acqua del comune in tutte le scuole della città, quindi non si spende una lira e non si consuma acqua che non sia controllata dal comune. E poi hanno bonificato dall'amianto tutti gli edifici pubblici della città, ed è una città grande. Questa è un'altra terza cosa buona. Mi sembra veramente fondamentale. Queste sono le stellette del comune virtuoso di Parma. E in palio invece c'è un weekend, un banale weekend presso un podere in un agriturismo nei paraggi. Mica male. Chi indovina il nostro personaggio? Per 800 24 0024. Due persone. Perfetto. Tra poco andiamo a Caserta, ci colleghiamo con l'ex ministro per i beni culturali Brai e vedremo insomma di fare il punto su che stato verte la reggia di Carditiello, il piano di recupero della reggia di Carditiello, una meravigliosa reggia borbonica che ha subito le sorti più assurde, è stata anche una discarica a un certo punto. Ma poi c'è anche storie di mafia, giusto? Sì, legate a... siamo nella terra dei fuochi. Esatto, sì. Va bene, allora direi che possiamo iniziare, vai! Questa questa mattina per fortuna c'è un'aria diversa. Il sole coi suoi raggi penetra dalla finestra. Quanto è bella la mia terra, mi manca quando parto. Porto una cartolina di riserva. Questo posto non deve morire, la mia gente non deve partire. Il mio accento si deve sentire. La strage dei rifiuti, l'aumento dei tumori. Siamo la terra del sole, non la terra dei fuochi. Questa mattina per fortuna la storia è cambiata. Vedo la gente che sorride spensierata. Non esiste cattiveria, si sta bene in strada. Il mondo si è fermato in questa splendida giornata. È lui o no, boh, stamattina mi ha svegliato il sole. L'odore del caffè, postere e canzone. Da quanto tempo che non stavo così. Ogni cosa commence, perché vado a farmi. Ma non mi manca niente, stamattina non mi manca niente. Abbraccio a Gabriele, sa dormo con pochi. Non sa dei miei problemi, non sa di questi schemi. Non sa poi capitolo, tu c'è un po' d'abbre. Bacio a mamma mia, già fornute fai servizi. La principessa, la miseria, mi sono una succiunizza. Barata piccolina, che non sono, se realizza. Ti cancellasse tutte rughe e tutte cose triste. Hey, hey, dimentica di andare fuori per lavoro. Le nuove aziende fioriranno nel tuo territorio. Dimentica le banche, li presteremo noi a loro. Zero padroni, gli ruberemo il trono. Non c'è la fila allo sportello. Se tifi un'altra squadra sei lo stesso mio fratello. Fate l'amore invece di impugnare quel coltello. La violenza è stata sempre il metodo di chi non ha cervello. Tagliate quella linea che divide nord e sud. Guarda il cielo per cercare chi purtroppo non c'è più. E allora, come annunciato, diamo il buongiorno all'ex ministro per i beni culturali Massimo Brai. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno e benvenuto in collegamento nelle zone, in avvicinamento nella zona della Terra dei Fuochi a Caserta, dove oggi tra l'altro ci sarà una manifestazione, insomma un punto di ritrovo proprio della cittadinanza. Ha voluto esserci anche Massimo Brai, che è stato tra quelli che ha spinto di più per il recupero di questo pezzo del patrimonio storico, artistico, culturale italiano, che sta diventando un simbolo perché si trova in una, insomma, in una zona ad alta densità anche camorristica, di illegalità, nella Terra dei Fuochi. Intanto oggi c'è un possiamo anche dare un appuntamento, una manifestazione, Brai? Sì, c'è una manifestazione a Caserta di sostegno a Nadia Verdile, che è questa bravissima giornalista del Mattino, che oltre ad aver scritto un libro sulla Reggia di Carditello, da tre secoli di fasti, feste, furti e aste, angeli e redenzioni. E già qua ci sono le parole poi per spiegare anche, allora glielo chiederò di ricordarci un po' la storia, le aste, l'angelo di Carditello, scomparso proprio dopo aver fatto, diciamo, per due anni da un po' da angelo custode, da volontario, una storia incredibile. Una manifestazione però in solidarietà anche sua, Brai, perché anche lei ha ricevuto qualche minaccia ultimamente, si può dire questo, vero? Sì, ma diciamo che noi siamo in una delle terre di cui parliamo giustamente, portando la nostra attenzione a quelli che sono i problemi gravi, ma anche una delle terre più ricche di storia, di grandissimi momenti, basti ricordare appunto Carditello, ma Caserta, San Leucio, una terra in cui c'è bisogno davvero, come avete detto, di dare un esempio di quelle che sono le buone pratiche, il rispetto della legalità, far capire quante persone, da Tommaso Cestrone, che era appunto l'angelo di Carditello, che era appunto questo volontario che si occupava a titolo gratuito di custodire il giardino e gli arredi dalle incurie e dalle ruberie. Io ho avuto appunto l'onore di conoscerlo durante la mia prima visita di anni fa. Tommaso appunto era una delle tante persone, come le associazioni, che ogni giorno cercano di tener viva l'attenzione su un territorio di cui dovremmo ricordare queste grandissime bellezze, queste grandissime capacità, appunto, che ricalgono purtroppo a molti anni fa, ecco, appunto, di coniugare appunto una bellezza artistica con una capacità produttiva, perché voglio ricordare che erano tutti luoghi pensati fin dall'inizio per creare lavoro, per creare anche delle condizioni di lavoro corrente. Ecco, allora facciamo subito anche un po' la storia di questa reggia di Carditello, Brai, perché appunto una reggia borbonica che si inseriva in una serie di dimore che i Borboni avevano nella zona, insomma intorno a Napoli, in Campania, e che insomma anche oggi potrebbe essere, in parte è anche un percorso culturale importantissimo. Si va dalla reggia di Caserta ad altre regge ben conservate, partecipate, un po' come visitare i castelli di Versailles. Purtroppo però dobbiamo poi constatare che invece la Reggia di cui parliamo oggi ha subito una sorte assolutamente straordinaria di eventi incredibili, fino a diventare a un certo punto quasi anche una discarica. Questo è stato il punto più basso. Pronto, Brai? Non abbiamo più Brai. Abbiamo perso il collegamento. Cioè, pronto, ci sente, Brai? Noi sentiamo, c'è un silenzio, un audio assordante di sottofondo, tipo macchina in avvicinamento, però probabilmente si è persa la linea, era già successo anche prima, saremo in zone non copertissime dalla rete telefonica, credo sia questo il punto. E questa è l'autoradio della macchina di Brai? No, gli stavo chiedendo questo appunto, cioè il fatto, perché la storia di questa Reggia è incredibile. Adesso se lo recuperiamo ce lo racconterà lui, però è passata di mano in mano da un consorzio all'altro, a un certo punto in stato di totale abbandono è diventata quasi anche una discarica. Il parco intorno a questa questa Reggia, che adesso non c'è più, c'era un bosco, perché che aveva una tenuta agricola, esatto, in passato, esatto. È stata proprio anche un'attività agricola imprenditoriale dei Borbone, che l'avevano concepita così, non solo come, diciamo, una reggia di mora, ma anche di attività imprenditoriale. E il sogno, l'idea di Brai, che come ministro si era impegnato affinché lo Stato partecipasse a una delle ultime aste e riconquistasse, diciamo, la proprietà di questa reggia, era proprio quello di farci una scuola di agricoltura, un centro di ricerca e quindi anche un motore un po' per lo sviluppo proprio nella Terra dei Fuochi. Un perfetto si può fare. Sarebbe un si può fare perfetto. Faremo un collegamento con loro, direi, una settimana sì, una settimana no. Quindi glielo possiamo già promettere se decidono di farla diventare una scuola. Tra l'altro abbiamo Luigi Carella, che su Twitter è il nostro amico che ci twitta tutte le mattine ascoltandoci dai campi dove lavora, e scrive: peccato che per pochi venga infangato un intero e vasto territorio verdeggiante e ricco di cultura. È quello che diceva anche Brai, che insomma per pochi che hanno fatto degli scempi, insomma, ci vanno di mezzo, pagano tutti come sempre. L'abbiamo, ma ce l'abbiamo recuperato al telefono. Ecco. Pronto? Sì. Pronto, buongiorno. Scusate, se la linea. La linea va e viene, speriamo che adesso vada. Eravamo appunto su questo grande progetto di sovrani, sì, illuminati, Borbone, appunto, di creare questi 22 siti che, della terra di lavoro, appunto, che andavano da Palazzo Reale a Napoli, la Reggia di Capodimonte, appunto, Carditello, Caserta, San Leucio. Ecco, tutto questo appunto che non erano solo luoghi per lo svago o appunto soltanto per mostrare la ricchezza di una dinastia, erano anche importanti perché costituivano delle vere e proprie aziende, appunto espressione di un'imprenditoria appunto illuminata, capace di capire che erano luoghi in cui si poteva coniugare la bellezza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio. Ma è vero che a un certo punto, insomma, io ho ricordato mentre stavamo cercando di recuperare la linea, i passaggi di mano, i consorsi che ci sono stati nella storia, il momento più basso nel quale insomma anche il parco intorno alla Reggia, i terreni intorno alla Reggia erano diventati quasi una discarica, una cosa folle. Sì, cioè vicino alla Reggia, a pochi metri, a 200 metri, c'è una delle grandi discariche italiane. E c'è questa cosa, questo simbolo abbastanza triste, appunto, che abbiamo una discarica dove l'esercito appunto deve sorvegliare e la Reggia invece abbandonata a se stessa e quindi, come dire, con tutti i danni che ha subito. Però io sono sempre dell'idea che dobbiamo veramente pensare che si può fare, come giustamente grazie, lo useremo come promo del programma sicuramente. Però al momento ci sono ancora delle criticità, perché lei quando era ministro spinse affinché a una delle aste partecipasse proprio, insomma, lo Stato italiano, ora se non ricordo male è andata così, quindi diciamo che lo Stato rientrasse in possesso della Reggia dopo più di 11 aste in cui nessuno si avvicinava alla Reggia per acquistarla. Lo Stato finalmente è rientrato in possesso, sono arrivati i primi fondi per il restauro e adesso bisogna tutti fare in modo di tenere l'attenzione sulla possibilità di fare una fondazione che gestisca questi restauri e che destini la Reggia, che a in un luogo cosa così delicato appunto ha diventato un osservatorio per esempio del recupero di questo territorio. si dovrebbe poter fare, diciamo, lo possiamo definire così? Per il momento fare. Senta Brian, ma la cosa pazzesca è questa, che da quello che ho capito io di questa vicenda, aggiunti a questo punto, è che è stato pur nelle difficoltà quasi più facile provvedere, diciamo, al recupero dal punto di vista della proprietà e a fare degli investimenti per ristrutturare un po' la reggia che era andata in malora, perché la gente andava, si prendeva dei pezzi di marmo, dei pezzi di statue e se li portava via, piuttosto che adesso creare una, appunto, come diceva lei, una nuova vita, una nuova assegnazione a questo spazio. Ed è una cosa pazzesca. Pensiamo a quante università, scuole, associazioni abbiano bisogno, ma anche incubatori di ricerca, di sedi, di posti dove ripartire, e qui invece adesso c'è una difficoltà. Come mai? Guardi, io nella mia breve esperienza due principali punti ho sottolineato e voglio ricordare. Uno è che noi dobbiamo davvero tornare a essere capaci di fare sistema, cioè essere capaci che se arriva un fondo europeo per il restauro di un qualunque bene, riusciamo a stare intorno a un tavolo e lavorare non per chi deve gestire queste risorse e arricchire la propria fama, ma davvero per raggiungere un obiettivo condiviso, che è quello di restaurare il bene. Sembra una banalità, ma le assicuro che è una delle cose più difficili, cioè tornare ad avere l'idea che lavoriamo tutti insieme per la difesa di un bene comune. La seconda vicenda che voglio sottolineare è che molte volte uno incontra veramente tante esperienze. Intorno a Carditello sono moltissime le associazioni che si sono mobilitate, ma questo in tutta Italia, ma anche una trasmissione come la vostra, ecco, molte volte tutte queste esperienze sono fuori da quella capacità di prendere le decisioni. Troppe volte sono addirittura ignorate, cioè molte volte chi ha la responsabilità politica non sa che nel territorio ci sono tante persone che ogni giorno lavorano per la difesa dei beni comuni. Quella dei comuni virtuosi che ho avuto il piacere di incontrare, con cui avevamo in piedi appunto un progetto che si intitolava La cultura che vince, è una grandissima associazione appunto che mira alla difesa del territorio, a difendere uno dei più grandi beni che abbiamo, che è il paesaggio in Italia. Voglio ricordare che il 50esimo dell'UNESCO, mi permetta di dirlo, che è una cosa importante nel nostro paese, certo. Per la prima volta è stato dato non a un bene materiale, ma a un paesaggio, quello delle Langhe, dimostrando che l'Italia, se appunto volesse davvero cambiare direzione, può davvero fare un turismo che valorizzi le mille ricchezze che abbiamo. Però ecco, lei parlava, insomma, della responsabilità politica. Lei è stato ministro per una stagione abbastanza breve, lei era considerato, diciamo, un po' un tecnico della materia per quanto riguarda i beni culturali rispetto ad altri ministri. Adesso c'è Franceschini, che è un politico puro, per quanto giudicato, anche ha scritto dei libri, insomma, però ecco, è un politico. Abbiamo avuto un filosofo come Buttiglione, politico, abbiamo avuto manager come Galan, ma sempre politici, no? Al Ministero dei Beni Culturali, tecnici pochi. Secondo lei qual è la strada giusta in questa materia da intraprendere? La strada giusta credo che sia quella che, al di là se sono politici o tecnici, insomma, è la volontà davvero di mettere al centro della nostra attenzione il patrimonio storico-artistico come un bene non solo che crea questa idea di comunità che abbiamo rischiato di perdere e che rischiamo di perdere ogni giorno, ma come la convinzione che per far ripartire il paese bisogna ripartire da questo. Io non trovo che abbiamo molte altre strade. Per fare questo è una scelta politica forte, perché spesso la politica non fa che parlare dell'importanza del patrimonio storico-artistico, il giorno dopo se ne dimentica. Ecco, fare davvero un piano di lancio di questo patrimonio vuol dire investire in professionalità, vuol dire essere convinti che da questo si può trarre uno spunto per ricreare un paese differente, un paese appunto che difende il suo paesaggio, che crede davvero nel fare, come dire, una raccolta dei rifiuti differenziata. Queste buone pratiche dovrebbero davvero essere al centro di quella che si chiama un'agenda politica. E lei come giudica adesso come si sta muovendo il governo Renzi, il suo successore Franceschini, per quanto riguarda queste cose qua? Con Franceschini ho parlato più volte anche di Carditello, e c'è sicuramente la volontà di andare avanti e proseguire su questa strada, però le ripeto, deve essere davvero una consapevolezza diffusa. Che lei ancora non vede? Che lei ancora non vede? La vedo troppo poco, sì. A livello di governo o anche a livello di cittadini? No, di ministro, di ministro. Prima voglio chiederle questo, di ministro. No, ma non è un problema di... Insomma, io vorrei veramente allontanarmi da questo individualismo. Sì. Uno è bravo, uno è meno bravo. Ci vuole davvero, come dire... Io non ho condiviso, per esempio, un provvedimento come lo Sblocca Italia, e l'ho detto, perché credo che questo paese abbia bisogno di difendere il suo paesaggio, abbia bisogno... E invece lo Sblocca Italia che cosa fa? Lo Sblocca Italia rischia, al contrario, con una serie di pratiche che consentono appunto di andare in deroga a quelle che sono le norme, di lasciare a un individuo, come dire, che opera verso, come dire, il bene comune, di far bene, ma se opera verso non dei buoni obiettivi, di continuare a rovinare questo paese. Anche anche sulla Terra dei Fuochi qualcuno ha detto che, diciamo, l'azione del governo inizialmente prevista con i ministri Martina, Galletti, Renzi, che è stato lì, eccetera, ad ampio spettro, adesso è stato ridotta l'area di intervento e di bonifica ad un sito piccolissimo. Il Consiglio, come dire, è stato uno dei... Sulla domanda non sul governo. Non sapremo mai cosa pensa Biden, il Presidente del Consiglio. È entrato in una galleria, è caduta la linea. Allora, vediamo se lo recuperiamo, altrimenti andiamo avanti. Cioè, andiamo avanti sicuramente. Se è recuperabile in tempi brevi, altrimenti poi dobbiamo chiuderla. Anche perché eri arrivato al punto a dire, beh, ma questo governo qui che cosa sta facendo? Va bene, ha fatto delle promesse, ma adesso, soprattutto, sulla Terra dei Fuochi, farà o non farà? Perché se restringe sempre di più, alla fine, se bonifichi un centimetro quadrato, diventa utile. C'è Brai. Eccomi, buongiorno. Buongiorno. Questo è il chiaro esempio delle infrastrutture del paese. Che non vanno, però, diciamo che non vanno ancora come dovrebbero. Potrebbero andare meglio, ecco, cioè, si può fare anche qui qualcosa di meglio. Ma a parte questo, insomma, il Presidente del Consiglio mi sembra si sia fortemente impegnato nel recupero della Terra dei Fuochi. Sarebbe importante, forse, se avesse voglia, come dire, di fare un viaggio insieme e di prendere degli impegni precisi, che possono partire da alcuni simboli. Io l'ho sempre detto, Carditello, questo è così proprio al centro di questa terra piena di problemi, può essere davvero il simbolo di un paese che vuol ripartire, che si vuole rimettere in piedi. È un po' l'operazione che facemmo sui bronzi di Riace. Rimettere i bronzi in piedi dopo tanti anni che erano chiusi e stesi e che nessuno li poteva vedere, coniamo questa metafora, il paese si rimette in piedi e vuole mostrare un paese diverso. Forse se il presidente Renzi avrà voglia di fare un viaggio nella Terra dei Fuochi e visitare questi beni culturali, potrebbe essere una forte spinta per un recupero e un rilancio. Lei farebbe da Cicerone? Con moltissimo piacere. Va bene. Beh, allora stiamo organizzando l'incontro, il picnic perlomeno. va bene. Il picnic alla Terra dei Fuochi. Insomma, va bene. Intanto grazie all'ex ministro Brahim. Grazie a voi. Grazie e buona voi, giornata. Buongiorno. Buona giornata. Arrivederci, buona giornata. Cioè, devo dire una cosa. Lui è stato, diciamo, su questo non ha voluto insistere. Lo profile ha parlato in generale, però si è beccato delle minacce. Sono arrivate delle lettere con dei proiettili a lui, alla giornalista del Mattino, proprio al Mattino, qualche giorno fa. E quindi, insomma. Infatti, tutte le volte che cadeva la linea ci agitavamo moltissimo qua in studio. 800 24 00 24, cari ascoltatori, che idea vi siete fatti di questa vicenda? Vi aspettiamo tra pochissimo, e poi anche col personaggio della settimana. No, non andiamo da nessuna parte. No, però posso leggerti, devo leggere un sms che non so se è rivolto a noi, ma ci tengo perché non vorrei mai che fosse rivolto a qualcun altro. Ci scrive uno sconosciuto: amo, alle 2:30 devo stare a Pescara che arriva Francesca, mo chiedo a Gianluca di preparare qualcosa. Mi sa che non credo che sia per noi, però io non vorrei mai rovinare il picnic di qualcuno, è pur sempre domenica, quindi l'ho letto nel caso che siate in ascolto. Insomma, alle 2:30 Pescara arriva. Ci troviamo tra un attimo, pausa. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, allora abbiamo un po' di ascoltatori in linea. Cominciamo con Ivano che ci chiama da Bari. Buongiorno Ivano. Buongiorno e buona domenica. Buongiorno. Io pensavo possa essere Salvini, il segretario della Lega, che ha tenuto quel comizio contro il governo Renzi. Ma chiama per il personaggio, certo, della settimana? Certo. Sì. Ha occupato anche Roma e quindi Salvini con il comizio. Certo, la manifestazione di ieri a Roma. Però non era lui. Non era lui. No. Sarebbe stato, diciamo, come dire, è giusta come risposta. Ci aspettavamo questa telefonata, possiamo dirlo, Alessio. Il trappolone. Era un po' il trappolone. Era un po' il trappolone. Però, insomma, diciamo... Perdonate l'ovvietà, allora. Ma no, figurati. Anzi, grazie mille, perché ci aspettavamo che qualcuno ci cascasse, se no... Esatto, a volte anche l'ovvietà può portare sulla strada giusta. Magari non questa, ma altre. Grazie, Ivano. Mi permettete solo due parole in merito alla Terra dei Fuochi? Sì, prego. Certo. Mi sarebbe piaciuto che un prossimo governo istituisse il reato di cattiveria reiterata, per cui tutte quelle persone che maltrattano, uccidono il nostro territorio, possono essere veramente chiuse nelle patrie galere, ma buttandoci via la chiave, perché uccidere così una terra bella come quella campana è veramente un peccato, fa piangere proprio internamente il cuore. Mi chiedo che pneuma, che spirito possono avere certe persone, ecco. Quindi la cattiveria reiterata, la mia ovviamente è una provocazione, però di essere istituita. È giusto, però chiamiamola tipo devastazione, perché andare in galera per la cattiveria mi sembra un monito troppo grande, anche per i bambini. Se sei cattivo vai in galera, chiamiamola devastazione. Una cattiveria profonda. Va bene, hai ragione. Cattiveria messa in pratica. Grazie Ivano. Andiamo con Armando, che ci chiama da Latina. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Niente, io volevo soltanto dire che tutto andrebbe molto meglio se si iniziasse da una revisione storica di quel periodo, perché sinora quando parliamo di quel periodo tutti dicono che quel periodo momento borbonico, tutto negativo, non è niente vero. In quel periodo le più belle cose in quel periodo sono state fatte in quel periodo in Italia. Lei è monarchico, lei è un nostalgico monarchico, glielo chiedo scherzando. Non sono nostalgico, sono obiettivo, perché ciò che hanno fatto. Ma lei è monarchico, lei aderisce, diciamo, all'ideologia monarchica? No, sono appassionato di storia. Ma non c'è nulla di male, Armando, anche se lo fosse. Tanto ormai non corriamo il rischio di tornare alla monarchia, che per me sarebbe un rischio. Quando vedo quelle bellezze di quei luoghi, io sono di Latina, mio padre è di Sermoneta, non c'entro niente con il Regno delle Due Sicilie. Però vedo quelle bellezze, il Vanvitelli, ciò che ha fatto, tutte quelle cose, il stato di abbandono, è come se ci fosse un progetto, è borbonico, ma che ci frega, abbandoniamolo lì, è borbonico. Invece in quel periodo il sud era il fulcro della cultura europea. Però non credo che ci sia un progetto antiborbonico, ho detto sembra. Ma io credo che non sembri nemmeno, perché l'incuria riguarda tante cose da quelle parti. E soprattutto fascista dal periodo storico, non è che ci può stare Borboni. Il fatto di devastare una zona perché appartiene a un momento storico in cui accadevano delle cose che uno non condivide. Non... Però, diciamo, Armando, in qualche modo vuol sottolineare una non sufficiente cultura, conoscenza del periodo borbonico, quindi valorizzazione. Tra l'altro io non ho neanche mai sentito parlare malissimo del periodo borbonico, cioè proprio da attaccarlo come dal punto di vista ideologico, diciamo. Ma facciamo il traffico o facciamo ancora un ascoltatore veloce? Dai, facciamo un ascoltatore veloce. Gianmaria dalla provincia di Pavia, buongiorno. Maria. Buongiorno. Buongiorno. Telefonavo per il personaggio del giorno. Siamo tutto orecchi. Bene, perfetto. E niente, volevo indicare le cooperative che sono state ricevute dal Papa. Le cooperative che sono state ricevute dal Papa, quando? Questa settimana. In udienza dal Papa, come succede normalmente. Esattamente. Quali cooperative si ricorda più o meno? Diverse cooperative, non so con precisione quali, l'avevo sentito una notizia. E lei dice hanno occupato Roma, potrebbe essere anche più... relativo all'inchiesta Mafia Capitale, quindi un po' anche a quello, si riferiva anche a quello? No, mi riferivo esclusivamente all'incontro. All'incontro, e penso che erano diverse cooperative, quindi mini invasione c'è stata. Certo. No, ecco, perché io ho pensato ci fosse un legame anche su quello, quindi in senso esteso questa occupazione delle cooperative a Roma. Però non era questa la risposta. Grazie mille. Grazie. Buona chiamata. Buona domenica. La risposta non me l'aspettavo proprio. Perché le cooperative hanno incontrato il Papa. Sì. Ma non è la questione delle cooperative rosse legate a Mafia Capitale, sono le cooperative di assistenza che sono andate a incontrare il Papa. Va bene, allora torniamo tra pochissimo dopo il traffico. 800 24 00 24. fare. Cronache da un paese migliore. Di recupero di spazi abbandonati, abbiamo appena finito di parlare della Reggia di Carditello a Caserta. C'è una bella storia che viene da Bolzano ed è questa. Aveva chiesto il comune agli abitanti di un quartiere che cosa volete fare della piazza San Vigilio che va ristrutturata. Loro avevano risposto: vogliamo wifi libero, più verde, un'arena e uno spazio per gli anziani. E così il comune ha fatto. Adesso 2 anni di percorso partecipato, iniziano i lavori e finalmente questa piazza della città di Bolzano avrà, diciamo, il volto ideato e immaginato e desiderato dagli stessi abitanti. E allora noi abbiamo convocato l'assessore all'urbanistica e alla casa di Bolzano, Maria Chiara Pasquali. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Buongiorno, buona domenica. Intanto grazie. Complimenti, perché insomma è una bella notizia, fa piacere ogni tanto. Ah, guarda come sono stati bravi a Bolzano. Poi... non è che siamo bravi, diciamo che ci sono anche i cittadini che hanno un senso di comunità per cui partecipano. Brava, di partecipare, perché spesso queste iniziative, questi bandi, poi finisce che chiedi alla gente di partecipare e magari la gente si disinteressa, gira sì, la testa all'altra anche perché parte, la reazione spesso è di dire: ma tanto non faranno non veramente nulla. Quello che vogliamo noi, tanto poi alla fine si chiuderanno in una stanza e faranno come vogliono loro. Pare, cosa che succede spessissimo. Esatto, infatti in la cosa città. Importante è che invece qui poi è successo. Ma Capiamo come funziona, come ha funzionato. Il tema è proprio quello di fare grandi processi di partecipazione e poi di non realizzare le opere. Invece noi ci siamo proprio posti partendo dal budget. Abbiamo detto: noi possiamo investire tanto, cioè 200.000 euro al massimo. E quindi con questa consapevolezza creiamo un progetto insieme per riqualificare quello spazio pubblico. E quindi dall'ascolto prima attraverso le scuole, le associazioni, il distretto e la circoscrizione, poi abbiamo creato proprio dei workshop di lavoro, dei laboratori dove abbiamo ripensato insieme quello spazio, quindi i primi sono stati proprio gli abitanti, i cittadini che hanno fatto proposte concrete e attraverso questo percorso di questi laboratori sono emerse le criticità di perché quello spazio era disabitato, non frequentato, abbandonato, con atti vandalici che l'avevano distrutto e come pensavano tutti quanti di diverse generazioni che hanno partecipato a questi workshop, come potesse essere ripensato. E quindi così abbiamo fatto, la proposta è venuta dai cittadini, quindi di diverse generazioni, perché possa diventare uno spazio vivo per giovani, per famiglie, per anziani e quindi frequentato durante tutto l'arco della giornata. Ma la cosa già che mi sembra molto interessante è il fatto che voi avete fatto un percorso, perché uno se no si immagina mettere un foglio su un muro e dire scrivete qui quello che voi volete dalla piazza, e questa cosa sarebbe impossibile poi da realizzare perché ognuno scriverebbe una cosa completamente diversa a quella del suo vicino. Invece il fatto di fare un percorso e di chiedere che cosa vorremmo tutti insieme qui dentro, giusto? Giusto, ma anche proprio cose contrastanti. La prima parte del lavoro era proprio che ciascuno liberamente dicesse le sue aspettative e poi chiaramente il compito era quello di ricondurle, trovare una in sintesi. Un concetto di sintesi comune. Mm. E qual è stata le voglio chiedere, intanto devo dire una cosa, perché magari qualche ascoltatore che ci sente dice sì vabbè facile, Bolzano, no, regione a statuto speciale, qua però i soldi non c'entrano nulla, avete messo a budget 200.000 euro, sì, che per una piazza sì. Non è che sia una cifra folle, è proprio il percorso che avete fatto e scelto di fare voi, quello lo può fare chiunque, qualunque comune all'ascolto italiano. italianissimo, diciamo così. Ed è quasi più importante il percorso, direi, poi del risultato. Se anche lo fai per 50.000 euro, esatto, o se lo fai per 7 qual euro. Qual è stata la difficoltà maggiore che avete dovuto superare? Cioè, resistenze dei cittadini a partecipare, oppure progetti troppo faraonici a cui si pensava, o cosa? No, diciamo che la partecipazione non è facile, il coinvolgimento delle persone, perché è sempre difficile essere coinvolti e poi essere attori principali del essere propositivi. E propositivi. Questa è sempre la cosa più difficile, quindi c'è stato un grande lavoro, come sappiamo, dicevo, che è più facile chiudersi al bar e lamentarsi, esatto, che le cose non vanno, piuttosto che andare la sera a fare una riunione con l'assessore e decidere voglio far questo, voglio far quest'altro. Sì, che non era solo l'assessore, vabbè, perché insomma, l'assessore adesso, era sì, lì proprio con il compito di ascoltare, certo, mentre c'era un gruppo di tecnici, tra cui non solo architetti, ma anche un sociologo, quindi anche persone esperte, no, nei rapporti di comunità, di socializzazione, che hanno realizzato insieme a noi questi workshop. Perché è importante questo? Quello che noi cerchiamo di fare è far nascere un senso identitario di comunità nella piazza. Infatti il percorso non si deve interrompere con la realizzazione di quello che effettivamente è il risultato e che è stato condiviso da tutti nell'ultima assemblea pubblica del progetto finale che adesso dovrà essere realizzato entro l'estate, ma è la gestione futura di questo spazio, quindi il coinvolgimento, certo, di tutti i partecipanti anche dopo. Addirittura forse è più importante, perché si fa presto a restaurare, sì, una piazza, poi se nessuno ci va, ci vive, se nessuno propone iniziative nell'arena, che ne so, di Piazza San Vigilio a Bolzano, il rischio è che il lavoro sia stato tutto inutile. Ancora complimenti. Noi ci fermiamo qua, grazie all'assessore all'urbanistica di Bolzano Maria Chiara Pasquali per essere stata con noi, buon lavoro, perché i lavori dovete ancora realizzarli, e in bocca al lupo. E buona democrazia partecipata. Bravi. Ripeto, una cosa che può essere fatta ovunque, non ci vogliono i soldi dello statuto speciale, l'indizio ce la facciamo dare, andare l'indizio, un altro indizio rapidissimo, oltre a che ha occupato Roma, il nostro personaggio ha molti nemici. Perfetto, 800 24 0024, tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. First you loved me and I let you in. Made me feel like I was born again. You empowered me, you made me strong. Built me up and I could do no wrong. I let down my guard, I fell into your arms. Forgot who I was, I didn't hear the alarms. Now I'm down on my knees, alone in the dark. I was blind to your game, you fired a shot in my heart. Questa che state state ascoltando è Si può fare. E questa che avete appena ascoltato è Living for Love di Madonna, che è il nostro Si può fare in musica, canzone suggerita dalla nostra ascoltatrice Fabiana Doriani. Vi ricordiamo che potete segnalarci i vostri Si può fare in musica, ovvero un vostro modo di interpretare il Si può fare attraverso una canzone. Lo potete fare sui nostri account social, che tipo su Facebook Si può fare trattino Radio 24, oppure sul nostro account di Twitter, che è chiocciola Si può fare 24, oppure sui nostri account personali. Il mio è chiocciola Carlo Gabardini e il mio chiocciola Ale Maurizi. Magari mettete anche il motivo per cui la vostra il vostro Si può fare in musica è proprio quello lì, perché tu dici che in questo caso il motivo è la caduta dal palco di Madonna, giusto? Non lo so, con annessa coda polemica con Armani sul vestito. Lui ha detto gliel'avevo previsto diverso la chiusura, poi lei l'ha voluto cambiare e è caduta. Esatto. Invece volevo spiegare anche agli ascoltatori come mai sono oggi in studio con la valigia. Giustamente Alessio mi ha detto: ma dove vai? Sarò a Ferrara, perché a Ferrara dal 27 febbraio a oggi, 1 marzo, si è tenuto e si continua a tenere alla Sala Estense in piazza del Municipio il TAG, che è il Festival di Cultura LGBT. Quindi per infondere l'importanza del confronto e aprire un dialogo con chi non ha gli strumenti per conoscere e per capire la realtà del mondo gay, lesbico e transessuale. Io ho un incontro alle ore 16 insieme a i Roosters Rugby 7, che è la squadra di Ferrara di rugby, su sport e coming out, contro l'omofobia, contro il bullismo, e sono molto contento di essere a Ferrara e non vedo l'ora, anche il perché rugby. Mangerò a Ferrara invece che a Milano, che ci ha dato per una volta una soddisfazione, per una volta non c'è una sconfitta al Sei Nazioni, insomma, vabbè. Allora, infatti festeggeremo, diciamo, vado lì a fare il mio terzo tempo. Cecilia da Varese, buongiorno, benvenuta all'800 24 00 24. Cosa voleva dirci, Cecilia? Buongiorno. Buongiorno. Volevo dire che è il punaggio della settimana. Perfetto, chi è? Flavio Tosi. E perché? Perché era a Roma, nonostante avesse detto che non andava, poi dopo è andato, e poi tutta la settimana che c'è una lite in corso con Salvini e per occupare il posto di governatore e Zaia. Ok, è vero. Diciamo, è vero. Come nemici è messo sicuramente c'è molto stata bene. Maretta, c'è stata Maretta, ma non era lui il personaggio a cui avevamo pensato, quindi grazie Cecilia. Grazie per averci provato. Come? Grazie, buona domenica. Andiamo con Fabrizio che ci chiama da Salerno. Fabrizio, sì, buongiorno. Buongiorno. Io come personaggio della settimana ho pensato a dei personaggi, quindi i tifosi del Feyenoord che hanno messo sto quadro Roma anche danneggiando la barcaccia di Piazza di Spagna. Quindi un gruppo, per noi questo va benissimo, perché non è che il personaggio, anzi sì, lo ricordiamo, anzi fatto... a volte abbiamo fatto anche personaggi fittizi, abbiamo Peppa fatto anche Pig, cartoni animati, quindi il gruppo non c'è nessun va problema. La notizia la conosciamo bene della barcaccia e dei tifosi, ma non è questa la risposta esatta. Giusta. Grazie ci aver poteva chiamato. Stare tutta, e forse anzi era una delle cose che ci aspettavamo. Era l'altro pezzo del trappolone. Sì, Salvini e Feyenoord. Quindi diciamo, però diciamo che siamo un po', perché comunque titoli ne ha avuti anche questo personaggio, ma anche nemici ne ha tanti. Anche nemici, sì. Sì. Ancora in onda l'ascoltatore? Nemici tifosi, no. Prima aveva solo nemici tifosi, direi che adesso hanno anche però... nemici cittadini e artisti, tipo il Bernini. Occhio, non facciamo altri nomi e non rispondiamo due volte, perché sennò poi bruciamo la possibile risposta giusta. Grazie anche a lei per aver giocato con noi. Facciamo ancora Federico, che ci chiama invece da Treviso in questo caso. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Volevo soltanto dire che la cultura non è solo mattone, e uno dei fenomeni tipicamente italiani è che la politica investe molto sui mattoni, però non sa bene poi come che contenuto dare. Come utilizzarli? In che senso, scusi, il mattone lei intende nella casa, nell'edilizia? Ma per esempio ristrutturare ville, ristrutturare teatri, ristrutturare strumenti musicali. Cioè, quindi per lei la cultura non è ristrutturare la legge di Carditello. Cosa vuol dire questa affermazione? No, vuol dire ristrutturare, ma poi anche investire sui contenuti. Riempirla poi di contenuti e non semplicemente costruire una bella scatola vuota, questo dice. Certamente, tanto è vero che la famosa legge che crea condizioni di favore per le aziende che investono è soltanto tanto sulle ristrutturazioni degli edifici, non sulla gestione per esempio di un teatro. Sì. E quindi questo lei adesso ha fatto questa giusta distinzione, cioè non bisogna preoccuparsi solo, è un po' come diceva prima anche l'assessore di Bolzano sulla recupero di Piazza San Vigilio, una regola italiana, cioè che la politica non ha la cultura per noi diamo più importanza al recupero per esempio edilizio, certo. anche sulla legge di Carditello sta succedendo la stessa cosa, cioè ci sono i soldi per ristrutturarla ma non si è ancora pensato a come dar vita a questa fondazione, quindi i giusti incentivi anche economici eccetera eccetera, questo è verissimo. Perché secondo lei succede questo? Perché la politica, indipendentemente dal colore, non ha cultura. Non ha cultura della cultura, diciamo così. Non ha la cultura. È un gioco di parole, ma esattamente così. Dove, cioè, però, per cultura si intende non soltanto, diciamo, la fruizione intellettuale e diciamo la crescita personale di ognuno di noi di fronte al monumento o all'aspetto artistico, ma proprio anche come momento in cui si mette in moto l'economia in base a questi fattori culturali. Diciamolo, ricordiamolo sempre, perché sennò sembra che stiamo parlando solo di quanto è bello il quadro e quanto è bella la reggia. No, parliamo proprio del fatto che milioni di turisti vengono ogni anno a Pompei, portali anche alla reggia di Caserta, portali anche alla reggia di portali anche al ristorante, anche in albergo, fargli pagare, questo stavi dicendo, certo. Giustamente. Certo. Grazie Federico per averci chiamato. Facciamo anche Massimo da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Secondo me è Craig con le riprese del film 007. Il personaggio della settimana. Perché? Perché hanno invaso Roma, hanno avuto problemi con le automobili, ho sentito queste notizie quasi di hanno avuto problemi con l'automobile, sì, nel senso che la notizia dell'automobile è molto bella. La notizia è questa, è che James Bond comunque contro le buche del traffico del manto stradale romano si è bloccato e si è fermato. Però quindi posso un dire conto una è andare in Arkansas, un conto è andare in Roma centro. Dal punto di vista del film è tutto quello che volete, però se leggevi bene quella notizia capivi che era un po' una castroneria, cioè lui andava a 70 all'ora e oltre quella velocità non è potuto andare, ma noi siamo in un punto della città dove al massimo si va a 50 all'ora, quindi non è un'autostrada dove c'è una buca, era un centro cittadino. Ho capito, ma non puoi nemmeno fare tutto uno 007 tutto messo con questo la prima a 32 all'ora, perché diventa un film noiosissimo. 007 in prima. Comunque possiamo comunicare che bravo, hai Massimo, vinto, bravo Massimo, hai vinto. Il personaggio era 007, era il set di 007, ma anche il personaggio 007, quindi è perfetta la risposta. Stavolta che abbiamo ha molti giocato nemici. Molto sul trappolone Salvini Feyenoord, ci sono cascati gli ascoltatori, però poi la risposta è arrivata un po' prima del normale, Carlo, oggi ci hanno vero. Bravi. Oppure l'indizio era facile. Grazie Massimo. Grazie vince mille. Vince in questo caso, mi piace ricordarlo, un weekend a Parma. Un weekend nel podere nell'agriturismo di Cristina, che si chiama così, a Parma, Comune Virtuoso, appunto weekend offerto dall'associazione Comuni Virtuosi che collabora con noi. Abbiamo il traffico, però insomma ascoltatori all'800240024, anche se abbiamo indovinato il personaggio, non smettete di chiamarci e di commentare e raccontarci la vostra Bolzano e tutto quello che volete. A tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. You're impossible, it's possible, but you feel so responsible for keeping you down, for keeping you down. You're unreachable, it's reachable, but you'll never grab. Start over. questa Start Over dei The Afters, parliamo anche noi di una storia, diciamo così, di rinascita. La rinascita è quella dei territori e delle persone coinvolte in un progetto portato avanti dalla comunità di Sant'Egidio a Catania, che vede quelli che spesso noi tutti viviamo come dei pesi, diciamolo pure, delle difficoltà, delle cose da superare, come insomma gli immigrati e i profughi, i domandanti di richiesta, facenti di richiesta d'asilo, diventano una risorsa per questi territori, perché insomma sono coinvolti in progetti di volontariato e danno una mano alle persone che hanno bisogno, anziani, bambini abbandonati, senza fissa dimora. Questo accade a Catania. Noi abbiamo in collegamento con noi Emiliano Abramo, buongiorno. Buongiorno. Che è proprio il responsabile della comunità di Sant'Egidio di Catania. Insomma, noi abbiamo raccontato, per esempio, che so, in alcune città dove i prefetti si sono mobilitati per mettere in pratica quella direttiva secondo la quale i domandanti richiesta d'asilo possono essere coinvolti in lavori socialmente utili. In altre città si fa il volontariato. Accade poco, perché non lo so perché, cioè forse scarsa, ce lo dica lei perché si fa poco, invece voi lo fate. Ma in realtà noi abbiamo iniziato a coinvolgere i migranti nei nostri servizi di volontariato e quindi a pensarli come una grande risorsa umana per le nostre città ancor prima della direttiva, perché nell'incontro appunto con tanti giovani africani e non solo abbiamo sentito la loro voglia di integrazione e di essere utili per la società in cui vivono e nella quale si pensano, e quindi la Sicilia, l'Italia e l'Europa. Proprio di recente c'è stato un convegno importante a Catania, un convegno nazionale organizzato da Magistratura Democratica, dove alla presenza di tantissimi prefetti abbiamo riflettuto su questa esperienza proprio per dire che si può fare. Io credo che ancora non sia fatta perché c'è proprio un ritardo culturale nelle nostre società. Come dicevi bene prima tu, percepiamo il migrante come un elemento destabilizzante della società, un qualcuno che leva qualcosa o che arreca un problema. In realtà non è così. Io, semplificando ma neanche troppo, voglio solamente dire che altro che ISIS o terroristi sui barconi, noi non li abbiamo mai visti. In Europa arriva il meglio dei paesi dell'Africa, cioè i perseguitati. Semplificando, i cattivi rimangono a casa e i perseguitati con una voglia di pace vengono in Europa, che ringiovanisce grazie a loro. Però non è insomma tutto rose e fiore, anzi. Ora, senza entrare poi nel merito di questi giudizi, se l'immigrazione sia un peso o una risorsa, sicuramente lo dicono anche alcune inchieste economiche, è una risorsa economica, perché gli immigrati partecipano ormai quasi al 10% del PIL italiano, pur non essendo, tra l'altro, essendo meno del 10% della popolazione. Però è quello che è importante di progetti come il vostro, è che voi proprio cercate di favorire questo processo, di far nascere delle risorse, dei valori, laddove inizialmente il viaggio, la disperazione, lo sfruttamento dei trafficanti, ma anche c'è stata un'inchiesta di servizio pubblico in settimana che ha fatto vedere come neanche nei centri d'accoglienza ci siano dei dubbi sulla gestione, i famosi 5 euro che non vengono dati ai profughi, eccetera eccetera. In tutte queste difficoltà voi arrivate e cercate di creare invece positività, energie positive, andando incontro ai bisogni che ci sono, no? Perché lì parliamo di bambini, anziani, persone sole a cui questi immigrati danno una mano. Come? Ci racconta qualcosa? Sì, vi racconto qualcosa. Intanto bisogna invece proprio entrare nel merito. Lei ha citato servizio pubblico. Il pocket money è di 2,50 euro e quindi non sono i 34,50 euro che ci raccontano, e spesso non vengono dati in denaro ma vengono date con un pacchetto di sigarette o con una ricarica al cellulare. Quindi a lei a quanto risulta, diciamo, almeno per l'esperienza di Catania, dove pure c'è un centro, credo, il CARA? Vicino Catania, del più grande centro di accoglienza d'Italia ed Europa, ma non è solo il Carabinero. Quindi secondo lei diciamo questa denuncia che è stata fatta al servizio pubblico è sbagliata, cioè i soldi vengono dati, questi 2,50 euro? No, ed esatto contrario. I 2,50 euro quando vengono dati, spesso vengono dati sotto forma di un bene materiale, quindi un pacchetto di sigarette piuttosto che una ricarica. Siamo molto lontani da questa denuncia che anche un po'. E lei perché pensa che è stata fatta invece questa denuncia? Come dire, non hanno capito bene la situazione i giornalisti di servizio pubblico, oppure volevano aizzare un po', oppure magari c'è qualcuno che fa il furbo, però lei dice nella media dei casi va tutto bene. No, guardi, questo che bisogna chiedere ai giornalisti di servizio pubblico. Ripeto, il pocket money è di 2,50 euro e spesso non viene dato in denaro. Questo è effettivamente un grosso problema, perché complica la vita del migrante. E sempre entrando nel merito, per quel che riguarda la bella esperienza che noi stiamo vivendo, vediamo questa domanda di integrazione che coincide, come dicevo, con la voglia di spendersi per l'Italia. Allora, noi vediamo migranti che oramai da tanto tempo, più di un anno, si spendono con i poveri della Sicilia, non solo di Catania, quindi vanno a trovare per esempio gli anziani in istituto. Dico solo una cosa: a Catania nel mese di agosto, quando la città è deserta perché sono tutti in ferie, molti istituti hanno ricevuto la visita solo di giovani migranti che sono andati a trovare gli anziani soli. E questo legame è molto importante, perché sta veramente alleviando la solitudine di anziani che spesso nelle nostre società vengono messi di lato, poco considerati, e i migranti sono una grande risorsa umana ma anche sociale. E questo discorso si può estendere anche ad altre realtà deboli delle nostre società. Lei ha parlato dei bambini. Noi abbiamo visto migranti con tanti bambini, soprattutto all'indomani degli episodi di Parigi, dell'attentato alla redazione di Charlie Hebdo, tanti bambini musulmani spaventati perché si sono sentiti additati di essere appunto i figli dei terroristi o loro stessi dei terroristi in erba abbiamo visto tanti migranti andarli a trovare a giocare con loro per creare un modello di società possibile. Ma ancora la cosa più bella è vedere tanti migranti che ancora hanno una grande paura per il futuro, perché non hanno avuto una risposta alla loro richiesta di asilo politico, perché purtroppo i tempi ancora sono molto lenti, si attendono anche 18 mesi e di più per avere una risposta alla domanda di asilo politico, e tendenzialmente tutta gente che ha diritto. Abbiamo visto questi stessi migranti stare al porto, in questura, in prefettura, ad accogliere i migranti, ad aiutare le nostre istituzioni ad ascoltare la domanda di asilo. Li abbiamo visti come mediatori culturali, come interpreti, e tutto questo come volontari. Come reagisce, scusi se la interrompo, il coinvolgimento della popolazione, cioè la percezione da parte degli abitanti della città di Catania, delle comunità coinvolte dai vostri progetti, del discorso che ci stava spiegando prima, cioè cercare di vedere in questi richiedenti diritto all'asilo, in questi immigrati, non solo un problema ma una risorsa. C'è questa percezione? Questa percezione c'è laddove è più visibile, per esempio nella città di Catania, dove c'è una grande realtà, almeno 60-70 giovani migranti impegnati in questa città, e suscita un grande movimento di simpatia che è riuscito a coinvolgere diverse centinaia di giovani che insieme ai loro amici migranti hanno scelto di spendersi per i poveri della propria città. Meno questo avviene laddove questa esperienza è meno visibile, anche perché un tempo in cui circola una certa cultura che porta paura verso il migrante e che poco lo percepisce come una risorsa. Questo ci preoccupa parecchio. Quanti sono i migranti che fanno, diciamo, questi servizi di volontariato più o meno quotidianamente o settimanalmente lì da voi, tanto per darci un numero? Poco meno di 100. Un centinaio. E quanti sono invece gli ospiti? Ci diceva alle porte di Catania, il più grande centro in Europa. Quante persone sono ospiti là dentro? E dunque, attualmente sono quasi 4.000, ma è riuscito a ospitare anche più di 4.000 con solo 2.000 posti letto. Va bene, grazie per il lavoro che fate. In bocca al lupo a Catania, alla comunità di Sant'Egidio. E veramente questa, insomma, in bocca al lupo. Era la notizia di cui abbiamo voluto raccontare, proprio fra l'altro nella settimana in cui c'è stata questa denuncia da parte di servizio pubblico, nella quale si diceva che i pocket money, cioè i 2,50 euro che devono essere dati per legge agli immigrati e richiedenti diritto d'asilo, vengono trattenuti invece da chi gestisce questi centri. E invece ho sentito Emiliano Abramo del Comitato Giuridico di Catania, diceva no, la denuncia è falsa, i soldi vengono dati regolarmente, spesso vengono dati attraverso sigarette oppure schede telefoniche o ricariche sul proprio numero. Anche se, insomma, su questa gestione continuano a esserci un po' di perplessità, un po' di ombre. Vedremo. 800 24 00 24. Ci fermiamo, c'è qualcosa su Twitter o sull'SMS che vogliamo dire? Io su Twitter, non al momento, a parte che prima avevo letto bene il messaggino di quella che diceva amo, torno a Pescara a quell'orario lì, ha effettivamente ci ha riscritto dicendo ho sbagliato numero, vi ringrazio moltissimo di aver letto il mio messaggio, tutti sanno. Perché tutti sanno, però almeno lo sanno anche chi lo... la famiglia non si è spaccata e il loro picnic non è rovinato. Tantissimi messaggi sul Twitter mio, Ale Maurizi, ma anche su Si può fare 24 nei confronti di Massimo Brai, ex ministro dei beni culturali, una valanga di congratulazioni, di complimenti per lui, il suo impegno come come quando è stato ministro, per Carditello, eccetera eccetera. Ci fermiamo, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Look at them yo-yos, that's the way you do it. Play the guitar on MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, them guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. No, intanto gli ascoltatori all'SMS dicono volete negare il problema dell'immigrazione, non è così. Beh, caro non ascoltatore, non che mi sembra. Cioè, non è che vogliamo dire che devono sbarcare tutti, che possono arrivare tutti, che dobbiamo accogliere chiunque. Diciamo solo che in alcuni casi, spesso, di più di quello che si fa, si può trasformare l'immigrato richiedente diritto d'asilo, il profugo, in una risorsa. È quello che tentano di fare alla comunità di Sant'Egidio di Catania, facendoli fare volontariato. E soprattutto è normale che dal loro punto di vista è ovvio che siano delle risorse. Se non se fossero loro i primi a non vederli come delle risorse, come potrebbero mettersi a fare quel lavoro splendido che fanno? 800 24 00 24, cari ascoltatori, voi sempre, che cosa ne pensate su sempre questo? Sugli SMS, devo dare una risposta. Sì. Mi chiedono, Carlo, ma il film Patria arriverà anche nelle sale di Campobasso, Termoli o Vasto, eccetera eccetera? Ma arriva anche nelle piccole città? No, perché la risposta in realtà ce l'hanno chiesto anche ieri. Il problema è che in questo momento Patria è fuori in una ventina di copie. Ovviamente se il film va bene, quindi chi lo vede, esatto, è sicuramente un film di nicchia. Bisogna, è distribuito dall'Istituto Luce, trasmissione però... orale, cioè bisogna parlare. Bravissimo, come se fosse una cosa massonica. Bravissimo. No, speriamo che arrivi così in tutte però le città. Però è importante che se tutti lo, diciamo, se lo si va a vedere, poi i distributori si convincono e lo metteranno in tutti i cinema. Poi comunque un film dove c'è anche Pannofino, Citran, mi ha parlato pure da Fazio, quindi speriamo che il film vada bene. Allora, adesso nella settimana, tra l'altro, della moda, con Money for Nothing in sottofondo, strepitosa canzone di Dire Straits, vogliamo raccontarvi di un negozio particolare, un posto dove possono andare le persone segnalate dai servizi sociali, come accade spesso, diciamo, a vestirsi, a trovare dell'abbigliamento, la risposta per il problema dell'indigenza. Dell'indigenza, insomma. Però per una volta in questo negozio si entra, e si entra in un vero e proprio negozio, una boutique. Pensate a chi deve magari portare dei bambini, non vuole dare questa sensazione, diciamo, di, come dire, di difficoltà di trovarsi prendere i vestiti dal sacco della spazzatura, dal sacco, dal cesto, eccetera. Allora l'associazione Reuse with Love ha pensato bene di creare una vera e propria boutique a Bologna, e di questo parliamo con una dei membri dell'associazione Reuse with Love, che è Maria Letizia Mazzanti. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi, buongiorno. Buongiorno. Sì, noi abbiamo aperto proprio un negozio, avete detto bene, una boutique in centro, come in, se ne trovano in, nel centro di tutte le città, è proprio la caratteristica di questo negozio. Però la caratteristica più importante, sì, è che tutte le cose che sono all'interno del negozio sono regalate a noi, ci, certo, vengono donate dalle persone e a nostra volta ovviamente le doniamo a chi è in difficoltà. Quindi cerchiamo di mantenere la dignità delle persone quando entrano, di farle sentire a loro agio, come avete detto giustamente voi, chi viene con il bambino può scegliersi dei vestiti come se stesse facendo shopping. Noi abbiamo iniziato facendo dei mercatini solidali. Ma c'è anche, c'è anche una finta coda alla cassa? Non c'è la cassa, il bello, no, Sara, è una battutaccia, le chiedo scusa. Non ci sono soldi, da noi sono vestiti, abbigliamento, accessori, ma nulla di tutto quello che riguarda la parte economica non esiste. Con questa iniziativa, Maria Letizia, avete voluto pensare in particolare, che ne so, a chi va magari con dei bambini, per non dare proprio la sensazione, perché forse un adulto tutto sommato, se è in una situazione di indigenza, a un certo punto se ne fa una ragione e non si sconvolge più di tanto ad andare in una parrocchia oppure in un centro di smistamento di questo vestiario. Forse una accortezza maggiore è giusto averla con i bambini? Noi ci dedichiamo ai bambini, ma in realtà anche le famiglie che hanno perso il lavoro, comunque diventa molto difficile anche per loro dover andare a chiedere qualcosa, e quindi invece in questo negozio loro hanno possibilità di acquistare, fra virgolette, come se stessero andando in un negozio del centro. E noi siamo riusciti ad avere questa sede che è in via Savanella 13 a Bologna, lo dico perché è aperto ogni terzo sabato del mese, è molto importante, e chiunque voglia portarci abiti può venire la mattina di ogni terzo sabato del mese. E siamo riusciti a fare questo perché ci siamo costituite in libera forma associativa. Abbiamo partecipato, siamo in 50 adesso al momento, tutte mamme, tutte donne, tutte professioniste che lavorano. Però per avere la sede, come avete fatto? Ci siamo costituite infatti in libera forma associativa, sì, e abbiamo partecipato a un bando di cittadinanza del comune, sì, di Bologna, che con la progettazione del quartiere Santo Stefano e la sua presidente Ilaria Giorgetti ci hanno dato questa attuale sede operativa. Noi l'abbiamo un po' risistemata, le pareti sono fucsia, il lampadario è come un lampadario di un negozio del centro, cioè è una vera e propria boutique fashion, insomma, non è una boutique fashion. Avete siete orgogliosi, anche si sente dalla voce, dal tono di Maria, vero, Letizia. L'idea è bellissima, se posso dire. Sì. Io volevo chiedere una cosa, sì, che forse è stupida, nel senso che mi chiedo, siccome tutti lo sanno, immagino, che questo negozio ha questa particolarità, quindi è inutile che ce la nascondiamo, e anche i bambini non è che sono stupidi, quindi mi chiedo come funziona il fatto che comunque si sa che quello è un negozio dove non si paga, e quindi io immagino che bisognerà anche dimostrare i servizi sociali, dimostrare, certo, il fatto di aver diritto ad avere i vestiti gratuitamente. Sì, sì, noi al momento, proprio per essere sicure che vadano a buon fine, accettiamo solo persone segnalate dai servizi sociali, piuttosto da da case famiglie, da ospedali, quindi noi vogliamo essere tranquilli, abbiamo un elenco che ci viene fornito dal comune con i nomi delle persone e, certo, possono accedere solo tramite questo elenco. Ci siamo dati un regolamento interno dove diamo un certo numero di capi alle persone, è chiaro che non siamo tassativi, un paio di calzini non, certo, contano come un capo d'abbigliamento, però, uh-huh, cerchiamo anche di avere una rotazione nelle famiglie, per cui la stessa famiglia non si ripresenti il sabato successivo. Ma io quello che mi chiedevo, siccome veramente la trovo un'idea stupenda, mi chiedevo se funziona questo meccanismo anche psicologico, per cui uno è veramente in un negozio di vestiti e non sta accettando la carità dei vestiti in un sacchetto. Cioè, com'è la reazione delle persone che vengono? Se sono felici, se... Sono felici, anzi, io ho contattato una coppia con mamma e papà che avevano perso il lavoro e sono andati per cercare abbigliamento del bambino e mi hanno detto: ma io non sapevo di poter prendere qualcosa anche per me, e proprio con gioia l'hanno detto, come per dire posso tornare anche io, quindi proprio si sentono a loro agio, questa bello, è la dimostrazione. Senta, Maria, che il progetto Maria funziona. Letizia, siete tutti volontari voi che ci lavorate? Tutti volontari, tutti liberi professionisti, tutte mamme che lavoriamo, quindi ritagliamo, è per quello che dobbiamo essere in tante, per ritagliare un po' di tempo per tutti, sì. Colgo l'occasione di fare un appello: se avete abiti usati portateceli, se avete bici usate, siamo per iniziare un progetto particolare, abbiamo bisogno di bici usate da bambino, da adulto, il nostro sito è reusewithlove.org, sì. E abbiamo un mercatino che sarà il 9 e il 10 di maggio quest'anno, dove una parte degli abbigliamento che ovviamente non viene dato a queste famiglie bisognose, lo mettiamo a disposizione, diciamo una pseudo vendita, ma non è una vendita, chi vuole farci delle donazioni per questi capi di abbigliamento, noi siamo aperti il 9 e il 10 maggio. Perfetto. Per questo Vintage Market. E ricordiamo anche una cosa, che fare il volontariato fa bene a chi lo riceve, ma soprattutto mi sembra di capire dal tono, dall'entusiasmo, anche a chi lo fa, perché questo bisogna dirlo, vero? Noi siamo un grande gruppo di amiche, siamo diventate tutte amiche e questa è la forza vincente, perché ci sentiamo tutte unite da questo progetto. Le faccio la domanda che di solito farebbe Alessio Maurizi, le chiedo: come mai il nome tutto in inglese? Non lo so, non chiedetelo a me, perché questo purtroppo non ho la risposta, la scelta la mia presidente, ma ormai secondo è tutto... me era il significato, perché ci permette di abbinarlo a Reuse with Good, Reuse for, insomma abbiamo mille progetti che con Reuse ci stanno bene. Allora lo accettiamo, però i giochi di parole esistono anche in italiano. Allora io ricordo a questo punto la petizione Dillo in italiano, lo trovate su Twitter, ma potete firmarla anche su change.org, perché insomma bisogna dirle in italiano le cose quando possibile. Grazie Maria Letizia. Grazie mille, buona domenica. Buona domenica a voi. E questa era Reuse with Good, via Savanella, Bologna. Ho fatto la domanda che avresti fatto. Grazie, tu. Grazie Carlo, grazie per averlo fatto al posto mio. Cari amici ascoltatori, 800 24 00 24, abbiamo ancora uno spicchio di trasmissione per sentirvi, anche se oggi il personaggio della settimana è già stato indovinato, è già andato via, così come il pane, come l'olio. Vanno via come il pane, la domenica i personaggi. Infatti secondo me dobbiamo anche istituire questa cosa, che se indovinano prima bisogna creare un nuovo personaggio, sì. Ma lo faremo, ci lo faremo. Poteva pensare oggi, magari la settimana prossima, anzi, ci attrezziamo. Il nostro regolamento interno prevede che se lo indovinate entro la prima ora, noi ne l'hai scritto giriamo tu adesso, esatto, l'ho appena scritto io, come puoi vedere c'è scritto articolo 1. Adesso firmiamo, bam, timbro, vai, traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, Enzo ci chiama da Carbonia. Buongiorno. Carbonia. No, Carbonia. Carbonia. In Sardegna. In Sardegna, provincia di Cagliari, Carbonia Iglesias, va bene. La mia considerazione è questa. Noi siamo in una città dove l'immigrazione l'abbiamo conosciuta sia in entrata che in uscita, nel senso che quando è nata Carbonia, da tutta Italia sono venuti a lavorare nelle miniere. Poi quando hanno chiuso le miniere noi abbiamo preso la nostra valigia di cartone e siamo andati sia in Italia che all'estero. Allora il disco, io non sono contrario all'immigrazione, io sono favorevole, ma vorrei che loro venissero con i mezzi di trasporto normale e noi potessimo aiutare questi popoli aiutandoli nel loro territorio. Ma per fare questo oggi, invece di impiegare tante risorse nell'andare a 2 miglia, 5 miglia, dovremmo andare in pratica ai loro confini per impedire a questa gente di potersi imbarcare in queste carrette del mare e andare a sicura morte. Sì, diventa un po' difficile, nel senso che questo era il tentativo che si era fatto nel momento che c'era ancora Gheddafi, perché si poteva parlare con un governo, seppur in realtà un dittatore, che però riusciva a tenere l'ordine in Libia. In questo momento in Libia ci sono queste 140 tribù di cui ci parla qualunque programma televisivo, e diventa un po' difficile prendere un accordo, e andare sulle loro coste vuol dire occupare un paese. Però noi abbiamo già fatto, abbiamo fatto questo tentativo nel 2011 e non l'abbiamo portato a termine. Io credo che dovremmo portarlo a termine. L'abbiamo rovinato, direi. Non lo so, guardi. L'abbiamo creato noi. Abbiamo tolto Gheddafi e abbiamo lasciato tutti gli altri litigare fra di loro. Nel momento in cui, almeno questa è la mia considerazione, se noi andiamo in un paese così tribolato e così confuso, o ci restiamo per riuscire a gestire il potere all'interno di quel paese, o se no è inutile che andiamo, gli diamo due colpi. Sì, e guardi poi... Enzo, sa quale sarebbe la soluzione? Sarebbe che invece, diciamo, ci fossero dei punti gestiti dalle Nazioni Unite, dall'Alto Commissario dei Profughi. Anche. Qualcuno dice, ha invocato il Vaticano con i nunzi apostolici, dove si possa fare domanda di diritto d'asilo e in quel caso essere trasportati, se si viene da paesi in guerra, guerra, Siria, Eritrea, eccetera, sì, beh, chiaro, direttamente smistati dove si fa. Questo potrebbe essere una soluzione, ma è una cosa di cui si parla e che nessuno fa. Il resto è purtroppo insomma il caos che stiamo vivendo, e nessuna strada è facile, sa, perché nemmeno andare in Libia, hanno detto persone più esperte di noi, capi di stato maggiore, ci vorrebbero 200-300 mila uomini per andare in Libia. Comunque grazie Enzo per aver sollevato e toccato anche questo argomento. 800 24 00 24, ancora qualche minuto per stare insieme. Ci sono un po' di sms, dunque intanto la solita accusa, no? Attenti a regalare la roba, a proposito del negozio di Bologna, se passa la finanza. State però tranquilli, è tutto regolare, abbiamo già appurato che ogni volta che c'è il baratto, ogni volta che c'è la gratuità, eccetera eccetera, però perché ci sono stati fuori. Casi, c'è stato il caso mi sembra del panino, sì. Per cui uno dice vabbè, anche se lo regali devi comunque sì. Fare lo scontrino. E comunque anche una gara di solidarietà, direi, nei nostri sms, perché vedo anche noi alla Torre Rossa Asti abbiamo un atelier dove chi ha bisogno, bravo, viene, oppure, compra gratis d'abbigliamento ad Arredi, oppure nel Comasco c'è la rete Regalo Tutto che fa piccole fiere nei dintorni. Grazie Patrizia per avercelo segnalato. Adesso è il momento di passare ad altro genere di segnalazioni, sono le iniziative dal basso, il crowdfunding, che ci racconta ogni domenica Federico Taddia. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, e non ci devo riflettere, te lo dico a chiare lettere. Non me lo posso permettere, quindi ti dico di no. Buongiorno Fede, ciao. No, ciao, ciao Alessio, ciao Carlo. Ciao, fammi sentire un attimo il sottofondo. No, mi sono un po' allontanato. Perché mi avevi anticipato che saresti stato di nuovo su un campo di rugby. Non esatto. A giocare, chiaramente. No, stai a guardare, mi sono spostato i 100 metri, poi ero inseguito da un cane che abbaiava. Spero di aver seminato anche il cane. Queste sono le avventure domenicali. Ma come mai sei sempre su un campo di rugby? Perché ho un figlio che gioca a rugby. Ecco, svelato. No, volevo delle informazioni. Siccome oggi sto andando a Ferrara, dove incontro la squadra di rugby di Ferrara, per fare un incontro su coming out, omofobia e rugby, allora mi chiedevo se avevi delle informazioni da darmi. Così, ecco, vedi, è riuscito a fare momento, da giocarmele. Momento proloco, Gabardini, anche qui, va bene. Perché invece l'altra volta, Fede, ti eri agganciato sul rugby con un progetto di crowdfunding. Invece questa settimana, da dove cominciamo? Questa settimana cominciamo con un progetto di crowdfunding che è stato lanciato in Australia, e quindi lontano, però volevo lanciare perché è stato il fenomeno della settimana. Padre e figlio che hanno progettato un'arnia automatica per fare il miele alla spina, che detta così Avevo capito un'arma automatica. Abbiamo tutti capito arma. Arnia, stiamo parlando di api, siamo per la pace e per il dolce, certo. La K14 si chiama l'arnia automatica, immaginiamo. No, invece è un progetto, loro pensano, l'hanno brevettato una decina d'anni fa, poi volevano realizzare il prototipo e hanno chiesto aiuto al crowdfunding, avevano bisogno di 70.000 dollari e pochissime ore ne hanno raccolti 3 milioni sulla piattaforma di crowdfunding di Indiegogo, perché questo progetto piace, ti permette di avere la tua arnia domestica in casa, perché sapete, l'arnia, le api, poi ricavare il miele c'è comunque una procedura che è complicata, devi saperlo fare, devi avere l'attrezzatura giusta. Loro sono riusciti a realizzare quest'arnia che di fatto fa tutto da sola, tu non disturbi le api, metti una sorta di rubinetto proprio attaccato alla tua casetta delle api, e quando è il periodo giusto vai lì, apri il rubinetto ed esce il miele già. Ma è stupenda. E queste povere api non escono mai? Non prendono mai la luce del sole? No, si organizzano da sole le api, figurati. Sono api operarie, esatto. È una cooperativa. Ma poverine, non escono mai, perché mi preoccupo. Loro escono, però non sei tu che devi andare là col fumo, stordirle. Fare tutte quelle cose. Va bene. Il dispenser direttamente, che si schiacci il bottone e esce il miele appena fatto. L'idea è rivoluzionaria. Molto bello. Costa 290 dollari l'arnia piccola, quella invece completa 600 dollari. La consegna dei primi pezzi è prevista per dicembre, ma hanno veramente raccolto tantissimi soldi, perché questa cosa piace, sembra veramente rivoluzionaria. FluHive si chiama, la piattaforma è Indiegogo, ci sono un sacco di disegni e viene spiegato proprio nei dettagli tutto il procedimento, c'è anche un video molto, molto didattico, ma anche ben ho fatto, insomma, ve lo consiglio perché se ha qualcosa di rivoluzionario e anche di poetico. Ma io perché... lo guardo di sicuro. Devo chiederti una cosa, tu che sai tutto, ma un'arnia uno la può mettere dove vuole o ci sono solamente certe zone dove ci sono le api? Cioè io posso metterla sul balcone a Milano o meglio di no? C'è già troppa roba su quel balcone a Milano. Hai ragione, hai ragione. Touché. No, volevo capire no, se uno deve andare nulla. Cosa c'è se uno sul deve balcone andare... di Carlo a Milano? Non possiamo svelarlo. Lo sapete solo voi, lo sappiamo solo noi. E sarà un programma radiofonico che noi faremo l'anno prossimo, sì, che si chiama Balconi. Comunque, no, volevo capire se si può mettere ovunque o meno. Credo che abbia bisogno di un po' di campagna nelle vicinanze e comunque la possibilità alle api di raggiungere qualche fiore, qualche prato. Però mi informo. Va bene, va bene. La premessa tu sai tutto era erratissima. No, invece io lo so che tu sai tutto. Invece con la seconda proposta è italianissima, perché parliamo di Giuseppe Verdi. Allora, c'è un carteggio, sono 82 lettere per 223 pagine scambiate tra Giuseppe Verdi e l'amico conte Opprandino Arrivabene, un nobile mantovano. Sono state trovate queste lettere, sono state messe all'asta. Per fortuna è intervenuto lo Stato dicendo che queste lettere non potevano finire in mano dei privati, ma dovevano comunque essere mantenute nel patrimonio pubblico, però mancano i soldi per acquistarle. E quindi la casa di Giuseppe Verdi ha lanciato un crowdfunding. L'obiettivo è raccogliere 120.000 euro, perché questa è la cifra necessaria per l'acquisto delle lettere. Costano molto, devo dire. Costano molto. Non sono ancora francate, diciamo. Non sono, esatto. Vedi che con le mele si risparmierebbe. Fino al 15 giugno c'è questo progetto di crowdfunding, fundingcarteggioverdi.it, il sito è la piattaforma. 100 euro è l'importo minimo che si può donare. Per i più benefattori avranno il loro nome inciso sul marmo nella casa di Giuseppe Verdi, che però, non so se beh, sia mica una cosa da poco, se è un incentivo o una minaccia però a di là delle battute è una di quelle iniziative dove appunto pubblico e privato si intrecciano, il privato deve andare in soccorso del pubblico, però è dare una mano proprio per tenere in casa intanto, in modo che non venga venduta all'estero, e per poter dare risalto a questo che va bene. È il patrimonio della nostra storia. Grazie Fede, noi ci fermiamo qua per oggi, ci troviamo domenica prossima con le tue notizie sul crowdfunding. Buona domenica, buona partita di rugby a tuo figlio. Grazie. Mi raccomando, poi questa cosa del balcone ce la spieghi sabato prossimo. Grazie a tutti, grazie ad Andrea Piana, autore insieme a noi del programma, e poi Miriam Scattone, sì Miriam Scattone, ma sei di fuori, Claudio Scattone e Miriam Lucchetti in redazione, Lorenzo Nespoli che esordisce con noi oggi in diretta e sarà sempre con noi, e sì, sostituisce in qualche modo Giorgio De Luca, che è stato il nostro mentore, il nostro tutore, che oggi festeggia il compleanno, oggi è il suo compleanno, quindi facciamo gli auguri anche a Giorgio De Luca. E un ringraziamento anche a Peter Bescapè in regia. Noi ci risentiamo sabato prossimo. Buona domenica da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini e a chi ci ascolta in podcast.